Zolt. Fulminati in azienda. Adesso che sorpresa a sorpresa ha sbloccato le assunzioni, dobbiamo trovare un nuovo responsabile al customer care. Sono d'accordo con te, è fondamentale avere una risorsa che governi tutto il call center, tutti gli stagisti di servizio al cliente. Bene, allora guarda, ti dico subito il profilo: giovane, motivato, con esperienza di almeno 5 anni, soprattutto che sappia essere leader, certo. Me li deve guidare, sti stagisti, deve aver polso. Ecco, altre informazioni importanti? Ecco, tutti sti giovani che rispondono al telefono, devono capire dal loro nuovo capo che addizione italiana importante, bisogna rispondere al telefono che ha dizione giusta. Certo, una dizione perfetta, con le E e le O giuste. Ecco, e poi soprattutto che non sia raccomandato, che non se ne può più. Sai che cosa? Potresti fare un corso di selezione con Donald Jump che ti aiuti a trovare un profilo leaderistico socializzante. Cosa ne pensi? Ecco qua roba là. Allora Centri, ora tu imparerai com'è come fare a selezionare il candidato. Selection and non recommendation. Guarda, io il candidato giusto riconosco in un attimo, alla cieca. Wrong! Prima di scegliere collaboratore, tu fai un'intervista di selezione. Per esempio, se tu chiedi al candidato qual è il tuo sogno professionale, your dream, cosa osservi? Che non mi sogni troppo, perché in azienda c'è poco da sognare e tanto da star svegli. E invece c'entra il sogno professionale e guida che permette a ciascuna persona di esprimere se stessa. Express yourself! Sì, è fondamentale la regola PIDT. Che sarebbe DTT, il candidato che testermina tutti gli altri e viene assunto. Ma no, PIDT sono i quattro sogni professionali, professional dreams. People, il candidato ama lavorare con le persone. Ideas, ama i lavori creativi. Data, ama elaborare dati e informazioni. Things, ama lavorare con oggetti e con sue mani. No, con le mani non va bene, ci manca solo uno e me mena clienti. Allora, lei è l'ultima candidata che ha intervisto. Il suo nome? Katia Urlo. Ecco, signorina Urlo, come insegnano i grandi coach internazionali, gli chiedo, lei che sogno professionale c'ha? Io voglio fare un lavoro, possibilmente, nel mondo dello spettacolo. Scusi, ma lei pensa che fa la manager del servizio clienti sia come andare a fare conduttrice? Non so, non ci ho pensato. Mi hanno consigliato tanto di fare questa esperienza e sono venuto. Ecco, lei ha un orientamento people? In che senso? Lei non sa che c'è un orientamento people verso le persone? Bisogna saper lavorare con la gente per governare il servizio clienti? Scusi, posso fare una telefonata? Vabbè, la faccia pure, la faccia. Pronto? Pronto? Pronto, amorino mio bello, dimmi tesoro. Guarda, sono venuta qui a fare il colloquio come mi hai detto tu, ma mi chiedono cose che non capisco. Amore mio, non ti preoccupare, tu sorridi sempre e sii carina e simpatica. Al resto ci penso io. Se lo dici tu. Allora, abbiamo trovato il nuovo responsabile del customer care o no? Certo, e stiamo cercando altre 130 nuove risorse da inserire in azienda. Ma come 130 nuove risorse? Ma ti rendi conto che di questi tempi siamo gli unici che assumiamo? Sì, ma me l'hai detto tu di rimuovere il blocco delle assunzioni, perciò io ho iniziato... Capo, dopo che se siamo smazzati settimane dai colloqui, compreso il colloquio con Katia Urlo. Ecco, appunto, l'hai detto, blocchiamo le assunzioni ma assumiamo Katia Urlo. Io sono in grado di dire che è la persona giusta anche così, direi alla cieca. Alla cieca? Vuol dire che l'altra strada è al buio? Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3z2o 1t.